atto ritratto al Teatro di Documenti, una rassegna in pieno svolgimento dal 20 fino al 30 di luglio. Ne parliamo con Anna Ceravolo. Ci sei, Anna? Sì, buongiorno a tutti. Benvenuta. Eccomi. Allora, ci dici un po' come nasce, come sta andando, un po' di cose. Sì, allora, noi abbiamo messo in atto questo progetto per Estate Romana, che si sviluppa in due parti. Adesso con un programma di aperitivi in musica che si svolgono tutte le sere qui a teatro alle ore 19, e accanto agli aperitivi e appunto ai concerti che ogni sera variano, c'è jazz, abbiamo avuto opera, anche stasera ci sarà una soprano, e ci sono delle videoproiezioni dedicate a Luciano Damiani, perché quest'anno celebriamo i 10 anni dalla scomparsa di Luciano Damiani, che è anche il costruttore del Teatro di Documenti, oltre ad essere appunto un grandissimo artista anche a livello mondiale, ecco. E sempre per questo primo periodo di luglio della nostra Estate Romana facciamo delle incursioni urbane, delle performance che partono proprio oggi da Piazza Santa Maria Liberatrice e Piazza Testaccio, quindi vicino a noi, e poi andranno anche in altre zone, cioè tutti i giorni da qui fino a sabato cambieremo location. Domani saremo a Villa Sciarra, poi al Circo Massimo il 27, il 28 al Giardino degli Aranci, il 29 qui davanti al teatro, ed è una performance che è ispirata alle streghe del Macbeth e si chiama La Vela perché in realtà anche cita il famoso velo di Damiani che ha usato in molti spettacoli, il primo su tutti il Giardino dei Ciliegi. Sì. Poi a settembre invece non ci occupiamo più di musica, ma abbiamo invece una mostra qui da noi e degli appuntamenti legati alla recitazione, ma anche la recitazione vissuta dagli spettatori, che porteranno a mettersi alla prova adulti ma anche bambini piccolissimi, e degli appuntamenti rivolti più all'arte visiva. Quindi abbiamo cercato di mescolare il teatro con altre arti, adesso preponderante la musica e poi a settembre l'arte visiva. Benissimo. Allora, a questo punto ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più rispetto al programma e al Teatro di Documenti. Sì. E poi se vuoi ci segnali qualche giornata in particolare. Ma sono tutte belle. Okay. Adesso non è che voglio però sinceramente noi abbiamo avuto qui dei ragazzi straordinari. Abbiamo avuto Federica Raia, che è una soprano, che poi è ritornata a cantare i notturni mozartiani, che sono delle opere di Mozart che io personalmente anche non conoscevo, sono proprio delle chicche. Poi c'è stato jazz con dei giovani veramente molto molto in gamba. Oggi e giovedì c'è Silvia Lei, che è una soprano e che canta, come dire, le grandi aree della lirica, ma anche spazierà anche in un repertorio più popolare e ci parla di amore in modo giocoso, quindi penso sia anche piuttosto divertente. E domani abbiamo invece un trio di archi e anche loro fanno un repertorio molto vasto, dal classico al contemporaneo, si spingono più verso l'elettronica. Sul venerdì e il sabato invece abbiamo in orario serale un live set con Nine Years, ed è, come dire, una musica che ci porta più alle origini, alla radice, va un può scavare nell'inconscio, a evocare delle sonorità po' più ancestrali, mentre sabato e domenica, come aperitivo però del mezzogiorno, c'è un appuntamento consigliato alle famiglie e ai bambini, perché sarà una fiaba in rime e musica. Quindi insomma ce n'è per tutti i gusti. Devo dire che i musicisti che stanno passando in teatro in questi giorni, insomma, si sono veramente dati tanto, siamo molto soddisfatti, bene. Di questi ragazzi, questi adulti, persone, insomma, anche con molta esperienza. E così. Bene, speriamo di avere qui il pubblico, ecco, che venga a sentire queste cose. Allora, per il programma e per il teatro dei documenti c'è la pagina Facebook e il sito internet, giusto? E c'è il sito, sì. Bene. www.teatrodidocumenti.it. Allora Anna, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a tutti, ciao. E ciao, grazie. Ciao.